bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. A noi italiani le mezze misure non piacciono. Vediamo o bianco o nero. Il grigio per noi non esiste. Così siamo passati dall'odiare il nostro inno nazionale, addirittura fino al punto di pensare di cambiarlo con O Sole Mio o Il Va Pensiero, all'amarlo spudoratamente, riconoscendone la bellezza e la preziosità delle parole che vanno ben oltre la prima strofa. Stessa cosa per la bandiera, esibita prima solo durante le partite della nazionale, riscoperta poi grazie agli sforzi di Carlo Azeglio Ciampi e poi di Giorgio Napolitano, e appesa sempre più di frequente ai balconi come motivo d'orgoglio ed unità nazionale. E la Costituzione? Due i giudizi che se ne danno, il bianco e il nero. Un tesoro, la miglior Costituzione del mondo, la summa di quello che dovrebbe essere una democrazia secondo alcuni. Un mattone irrealizzabile, pieno di contraddizioni, da cambiare al più presto per altri. Raffreddiamo i toni, esaminiamo la questione con più calma. Va cambiata la Costituzione? E in che parti? E perché? A dispetto di tanti proclami, anche durante questa legislatura che ormai volge al termine, poco, anzi nulla, è stato fatto. La Costituzione non è stata cambiata. Tra le tante questioni che pesavano sul tavolo, non si è riusciti a mettere mano a una riforma costituzionale, nonostante questa, ricordiamo, fosse tra i primi punti all'ordine del giorno appena dopo le elezioni nel 2008. Ma non rimestiamo il passato, andiamo avanti. Riconosciamo la bellezza di questa carta, forse, come dice qualcuno, davvero la più bella del mondo, ma ha bisogno, dati i suoi oltre 60 anni d'età, di un lifting, di un restyling? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. La comunità politica trova nel riferimento al popolo la sua autentica dimensione. Essa è, e deve essere in realtà, l'unità organica e organizzatrice di un vero popolo. Il popolo non è una moltitudine amorfa, una massa inerte da manipolare e strumentalizzare, bensì un insieme di persone. Il popolo vive della pienezza della vita degli uomini che lo compongono, ciascuno dei quali è una persona consapevole delle proprie responsabilità e delle proprie convinzioni. Ciò che caratterizza in primo luogo un popolo è la condivisione di vita e di valori, che è fonte di comunione a livello spirituale e morale. La convivenza umana deve essere considerata anzitutto come un fatto spirituale. Quale comunicazione di conoscenze nella luce del vero? Esercizio di diritti e adempimento di doveri? Impulso e richiamo al bene morale? E come nobile comune godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni. Permanente disposizione ad effondere gli uni negli altri il meglio di se stessi. Anelito ad una mutua e sempre più ricca assimilazione di valori spirituali. Valori nei quali trovano la loro perenne vivificazione e il loro orientamento di fondo le espressioni culturali. Il mondo economico, le istituzioni sociali, i movimenti e i regimi politici, gli ordinamenti giuridici e tutti gli altri elementi esteriori, in cui si articola e si esprime la convivenza nel suo evolversi incessante. Questa visione della dottrina sociale della Chiesa ha trovato negli stati moderni come strumento la Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione italiana sembra evocare questi valori. La sovranità viene esercitata dal popolo. È con noi Paolo Giaretta, senatore del Partito Democratico. Una domanda secca. La nostra Costituzione è davvero la più bella del mondo? Ma io penso che sia molto bella. Poi ogni popolo probabilmente è innamorato della sua Costituzione. Gli Stati Uniti ce l'hanno dalla fine del 1700 e se la tengono cara. Però veramente noi possiamo dire che è una Costituzione che nasce intanto dalla fatica di un popolo, perché era un popolo uscito dalla guerra, che si era liberato da una drammatica dittatura, ed è una Costituzione che nasce dalla buona volontà degli uomini, dalla capacità di incontrarsi. Giustamente è stato ricordato come siano così presenti le radici della cultura sociale cattolica nella nostra Costituzione, che però ha saputo incontrarsi con altre culture politiche, quelle della sinistra, quelle del liberalismo. In questo senso è un mirabile equilibrio quello della Costituzione, non si tratta di imbalsamarla, si tratta però di esserne coscienti dei valori che porta la Costituzione. Le Costituzioni non danno mai le soluzioni definite dei problemi, però le Costituzioni servono a indicare la direzione di marcia che un popolo deve seguire per affrontare i problemi e per risolverli. Ecco. E certo nella nostra Costituzione questa funzione c'è, è forte. È questo uno dei suoi punti di forza? Quali sono i punti di forza della nostra Carta Costituzionale? Ma intanto parliamo soprattutto dei primi articoli, quelli che contengono i principi generali, che sono quelli che sono immutabili, che sono propri della coscienza di un popolo. Pensiamo in un'Italia che era l'Italia uscita dalla guerra, distrutta economicamente, ma distrutta anche moralmente, perché c'era la responsabilità di una dittatura, di una guerra iniziata dalla parte sbagliata, eppure la capacità dei costituenti di indicare con chiarezza alcuni principi, alcuni, pensiamo, il valore del lavoro, il valore forte della solidarietà di un popolo, il principio di eguaglianza delle condizioni di partenza. In un'Italia che era l'Italia contadina, in gran parte analfabeta, indicare con chiarezza il grande valore della scuola, dell'educazione, della cultura come principio fondamentale di eguaglianza. Diciamo, con tanti anni di anticipo rispetto a Don Milani e il discorso che ha fatto sulla scuola, se il cittadino non ha le parole giuste non riesce a essere realmente uguale. Quindi c'è un grande principio di eguaglianza e di rispetto della dignità della persona umana che permea tutti gli articoli della Costituzione. Poi nella seconda parte si danno delle soluzioni, diciamo, per il buon funzionamento delle istituzioni. Sono ancora di una modernità straordinaria, naturalmente l'Italia è profondamente cambiata, è cambiata la cultura, sono cambiati i mezzi a disposizione dei cittadini per informarsi, quindi questa seconda parte può anche essere modificata, ma senza smarrire mai il principio di fondo della nostra Carta Costituzionale, quei valori così moderni nella loro chiarezza, nella loro completezza. Ecco, proprio di questi punti che si possono modificare, parliamo tra pochissimo dopo la nostra pausa. Il bene di tutti, parliamone. Che ore, scusa, ma che ore, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo, fine del mondo, immondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale, i maroni no, Ferri batte il record di autogol, le liste del giudizio universale, erano trasmesse dai telegiornali, ma rettificate poi sulla pagina 666, ma prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei casi umani, meno umani che mai. Ricittiano dentro che la pila niente ciccia, niente, ma tu giri più leggero bruciando le tue scorte di preservativi, fiori in fiorello, l'amore è bello se ci sei tu. A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? Che rete? Sinistra, su, giù, centro, fine del mondo con un giramento, che chi vuole fuori, chi è dentro, intento e fuori TV, non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per i lecca culo, che il girone è giusto, ok? We'll be right back. cosa serial killer, serial politici, morti in diretta, i migliori casi clinici, cazzi vostri in onda, ok? Che ora è la fine del mondo, credete? Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti. Parliamone. Stiamo parlando di Costituzione. Costituzione la più bella del mondo, forse. Da modificare ancora, forse. Siamo in collegamento con il senatore Paolo Giaretta del Partito Democratico. Grazie per essere con noi. Eccoci qua. Ecco, questi aspetti che potrebbero, forse meriterebbero di venire modificati, quali sono? Ha parlato prima della seconda parte della Costituzione, sì, non insomma i valori fondamentali, chiaramente. Io sono abbastanza un conservatore in materia costituzionale, perché dico che per cambiare bisogna essere capaci di fare meglio. Cambiare per cambiare non serve a nulla, e forse il vero problema della nostra Costituzione, più di che cambiarla, è attuarla. Chi la rilegge, e io consiglio a tutti gli ascoltatori di farlo, i primi 10 articoli sono articoli meravigliosi, sono da soli un programma di buona politica. In un momento di crisi della politica, forse andare a riscoprire questi principi è la strada giusta. Si possono cambiare naturalmente alcuni istituti, ad esempio si è parlato a lungo di poter ridurre il numero dei parlamentari. Io penso che questo si possa fare, perché rispetto a quando è nata la Costituzione si è affermata la comunità europea, l'Unione Europea, con un Parlamento eletto direttamente dai cittadini, quindi c'è un altro livello di rappresentanza. Si sono realizzate le regioni previste dalla Costituzione, ma che per lunghi anni non erano state attuate. Quindi ci sono altri livelli di rappresentanza, e quindi si può ridurre il numero dei parlamentari. Si può immaginare che con la realizzazione delle regioni il Senato della Repubblica possa diventare, come si dice, un Senato federale, non la coppia gemella della Camera dei Deputati, ma il luogo in cui trovano rappresentanza diretta gli interessi territoriali delle regioni. Si può immaginare, in una società così dinamica e anche frammentata come quella odierna, maggiori poteri da parte del Presidente del Consiglio. Tuttavia, non illudiamoci che questi aggiustamenti, pure utili, risolvano, come dire, il cattivo funzionamento delle istituzioni, se non c'è un rapporto di fiducia tra il popolo e le istituzioni, e se non ci sono dei mediatori, siano essi i parlamentari, siano essi i partiti, siano anche la ricchezza dell'associazione della società civile, che essendo autorevoli diventano canali di vita democratica. Se non c'è questo, anche la migliore delle istituzioni non risolve i problemi del buon funzionamento della politica. Ecco, lei ha parlato, si potrebbe ridurre i parlamentari, si potrebbe cambiare la funzione del Senato, si potrebbe, però da alcuni anni, insomma, questa riforma costituzionale che viene evocata, si evoca perfino una legislatura costituente, però dopo alcuni cambiamenti, penso alle regioni negli anni 70 o al famoso riforma del titolo V a cavallo del 2000 durante la legislatura del centro-sinistra verso il termine, ecco, perché la riforma costituzionale si è tentata ma non ci siamo mai riusciti. In questa legislatura si è andati molto vicini ad un accordo ampio di modifica della seconda parte della Costituzione, purtroppo è prevalsa l'idea del centrodestra di abbandonare questa impresa, perché avendo voluto imporre a maggioranza l'idea di una sorta di repubblica presidenziale, non è stato possibile concludere i lavori. Adesso queste proposte sono impantanate alla Camera dei Deputati ed è stata un'occasione persa, perché su molte cose, dalla riduzione del numero dei parlamentari alla ridefinizione dei compiti del Presidente del Consiglio, si era realizzata un'intesa ed erano modifiche importanti che insieme alla ridefinizione del Senato come Senato delle Regioni si sarebbero potute portare in porto. Io mi sono molto meravigliato di questa venir meno dell'impegno del centrodestra, ma purtroppo bisogna prendere atto: per cambiare la Costituzione bisogna avere maggioranze molto larghe perché poi la Costituzione regga. Ecco, vedremo cosa si farà nella prossima legislatura. In ogni caso, ecco, meglio tenerci la nostra Costituzione così com'è, piuttosto che fare modifiche avventurose che poi non servirebbero a migliorare il sistema istituzionale. Ecco, quando appunto la nostra Costituzione è stata scritta, l'Europa era ancora un embrione, un'idea, si facevano i primi passi. Adesso che nel bene o nel male i più speranzosi cercano di incamminarsi verso gli Stati Uniti d'Europa, in che ruolo potrà giocare la nostra Costituzione? Potrà rendere l'Italia un tassello attivo di questa futura realtà di pace e speriamo di prosperità? Beh, non c'è dubbio che i valori fondamentali della Costituzione già contengono quell'orientamento alla collaborazione pacifica tra i popoli. Ricordiamo l'articolo 11 sul rifiuto della guerra e la strada sempre della cooperazione internazionale. Già la Costituzione incomincia a recepire i principi della convivenza europea. Ad esempio si è modificato recentemente l'articolo 81, quello che riguarda le procedure per l'approvazione del bilancio e la sostenibilità finanziaria del Paese, che ha recepito gli indirizzi della legislazione europea e dei patti sottoscritti a livello comunitario. Quindi senz'altro la nostra Costituzione vissuta e realizzata è uno strumento che sta in sintonia con l'idea degli Stati Uniti d'Europa. Del resto pensiamo che quella generazione che aveva conosciuto la guerra è la generazione dei De Gasperi in Italia, di Adenauer in Germania, di Schumann in Francia, che sono diventati capi dei loro paesi e hanno avuto questa grande intuizione, questa grande visione: mai più una guerra in Europa. E questo si poteva fare mettendo in comune le proprie istituzioni democratiche. Ecco, una battuta, proprio 10 secondi, andiamo sul personale. Qual è il punto, l'articolo che la rende più orgogliosa di questa Costituzione? Ma a me piacciono soprattutto i primi tre, in cui il concetto del lavoro, della solidarietà, dell'eguaglianza sono così chiaramente definiti in pochissime parole. In poche parole, invito a rileggerli quegli articoli perché, ripeto, sono da soli un programma di buona politica. Grazie senatore per il tempo che ci ha concesso, per essere stato con noi, e la attendiamo presto ancora. Grazie. Grazie, arrivederci. Ci troveremo, carissimi ascoltatori, nuovamente la settimana prossima per la nostra ultima puntata prima di Natale.